Non sapete dove posteggiarvi il mercoledì notte? Garageland. A manetta spalancata nei bassi fondi del rock and roll. Con Maurizio Faurisi e il Matthews dalle 23 su Rock FM. Ciao a tutti, sono Fabio Treves e vi aspetto tutti i lunedì dalle 17 alle 18 e in replica la domenica dalle 23 alle 24 per Blues Express su Rock FM. Ciao! The Long Journey, il sito internet di approfondimento culturale dedicato alla musica folk americana. Migliaia di articoli, interviste, biografie e recensioni a cura dei maggiori esperti e con la collaborazione di numerose riviste nazionali ed estere. Digita www.bgmai.it. Ti apparirà The Long Journey, il più completo sito italiano di musica roots. www.bgmai.it. Rock FM, Milano, Italy. Rock FM presenta Country Skyline. Buonasera, buonasera cari ascoltatori di Rock FM, Maurizio Faurisi al microfono a presentarvi anche quest'oggi, anche questa sera, la vostra dose di country music e roots music dalle frequenze di Rock FM, così come succede ogni martedì e ogni venerdì in replica. Un appuntamento che ormai al tredicesima stagione, un appuntamento settimanale, 13 stagioni, tutto è cominciato nel lontano 1993, pensate, sembra l'altro ieri invece. I contatti subito, 338-6171-300 è il numero di sms, l'indirizzo email è maurizio@radiorockfm.com e questo, signori miei, è Dwight Yoakam. Won't pay back half of all we lost. Oh oh oh, che bell'inizio, ragazzi. Ma non è finita. Si va avanti con ancora con New Country e ancora peschiamo in quel plotone di musicisti che hanno caratterizzato la country music a partire dagli anni 80 e fino ad oggi. Li chiamano nuovi tradizionalisti, new traditionalists, e negli anni 80 se ne sono fatti avanti un po'. Sicuramente tra i più famosi c'era e continua a esserci Dwight Yoakam, che ha cominciato nel 1986 con un album intitolato Guitars, Cadillacs, eccetera, eccetera, e subito ha fatto parlare di questo ragazzone della Kentucky che poi si è spostato in California per trovare il successo che non aveva trovato e non gli era stato riconosciuto, anzi non, in realtà non volevano dargli neanche l'opportunità di incidere a Nashville, e così ha voltato le spalle alla città, all'industria discografica nashvilliana, per dirigersi verso Los Angeles, dove ha fatto una buona fortuna. Lì sì, davvero che ha fatto una buona fortuna con la Reprise Records, una buona manciata di dischi, sempre di ottimo successo, sempre di buona qualità, 17 album, molti di più quelli invece di George Strait. Ah, a proposito, questa canzone era tratta da un album del 1998, Long Way Home di Dwight Yoakam. Il brano era I Wouldn't Put It Past Me, era quindi Dwight Yoakam, e con lui che abbiamo cominciato la trasmissione di questa sera, l'appuntamento Country Skyline di questa sera. Si parlava di George Strait, so che siete lì, tantissimi lì fuori ad ascoltare, apprezzare e spesso anche a richiedere George Strait, è uno dei più apprezzati, così come Alan Jackson, perché insomma si rifà quel country decisamente tradizionale, senza troppi fronzoli, senza troppi grilli per la testa, ma sempre curatissimo, sempre di ottima qualità. La qualità delle canzoni di George Strait è quasi sempre elevata, tant'è che è arrivato ben 50 volte in cima alle classifiche della country music, e questi 50 pezzi, 50 brani li ha messi insieme in un doppio CD che vi qualcosa di più che consigliarvelo, qualcosa di più, vorrei tanto obbligarvi ad acquistarlo. Pensate che ci sono canzoni come questa in questo doppio CD intitolato 15 Number One George Strait 1996, Blue Clear Sky. Non è la prima volta che passa di qui questa canzone ed è sempre un piacere ascoltarla. George Strait. You swear you've had enough. You're ready to give up on that little lie they call love. Then out of the blue clear sky, falling right into your hand, like rain on the desert sand. It's the last thing. Talking truth. bravo, bravo, bravo, bravo, questo signore si chiama George Strait. George Strait, quindi abbiamo ascoltato due promesse che poi si sono assolutamente confermate, due promesse degli anni Ottanta che sono diventate davvero due delle più importanti stelle del firmamento country, e voi lo sapete meglio di me, vero? Ditemelo al 338-6171-300, ditemelo quali sono i vostri gusti personali, magari fatemi anche richieste, questa sera particolarmente inerenti alla trasmissione, quindi Country Skyline, appuntamento settimanale con la country music e la roots music il martedì e anche il venerdì dalle 23 alle 24 da Rock FM. Quindi due nomi famosissimi, famoso è anche il terzo nome che vado a proporvi questa sera, si chiama Keith Urban. Sicuramente lo ha reso ancora più famoso la sua ultima mossa, voglio dire, adesso non spacciamola per mossa, perché sembra, insomma, come dire, una mossa pensata, ragionata. Comunque, se l'ha pensata e l'ha ragionata prima di metterla in atto, certamente ha fatto bene. Pare che stia insieme a chi sta insieme? A Nicole Kidman, ecco, Nicole Kidman, mi sfuggivo, insomma, una delle più brutte ragazze di questo emisfero. E lei è australiana, lui neozelandese, sarà questo che li ha attratti? Vai a capirlo. Keith Urban, Country Music First Class, lo ascoltiamo con Days Go By. Interstate's jammed with gunners like me, afraid of coming in last. But somewhere in the race we run, we're coming up. Just the other night, I watched the world flash by. Headlights, taillights, running through a river of neon signs. But somewhere in the rush, I fell. Like a hand out the window as the cars go by. It's all we've been given, so you better start living. You better start living. Better start living right now. As days go by. Questo, signori miei, era Keith Urban. City Urban che abbiamo ascoltato con Days Gone By. Days Go By. E scrivono, già qualcuno si fa sentire, dai ora metti qualcosa di Alan Jackson. Oh, dimenticato a casa Alan Jackson. Di solito ce l'ho sempre qui al mio fianco. E se non ce l'ho qui, ce l'ho giù in macchina, quindi basterebbe in realtà fare una corsa. E invece questa sera non ho con me Alan Jackson. Settimana prossima, due, ecco, giusto, due. Settimana prossima, due pezzi di Alan Jackson, uno per te, caro ascoltatore, e uno per me. Perché sapete che Alan Jackson è uno dei miei preferiti. Questo disco che vado a presentarvi, dopo tre nomi assolutamente famosissimi, e ripeto ancora una volta, Kitty Urban lo è diventato ancora di più da quando si è accasato con niente poco di meno che un'attrice di fama planetaria. Ecco, invece questi altri due signori che portano i nomi assolutamente sconosciuti di Aaron Barker e Curtis Wayne sono famosi sì, ma accidenti, soltanto tra coloro che leggono bene, con attenzione, con cura le note di copertina dei dischi, cioè i nomi degli autori dei brani, perché questi signori, pensate, che hanno messo insieme, giusto per farvi capire, un disco intitolato Straight from the Horse's Mouth, qualche anno fa, tre o quattro anni fa, hanno messo insieme queste 12 canzoni che insieme hanno superato un totale di vendite di 60 milioni di copie, non grazie all'interpretazione degli stessi autori, no, ma di altri artisti come George Jones, Conway Twitty, George Strait e tutti gli altri, e tanti altri country star, country man, country artist mainstream sicuramente della Nashville più famosa. Ci ascoltiamo dalle voci degli autori, quindi ripeto ancora i loro nomi e diamogli un po' di fama a questi due poveretti, che se sono diventati ricchi lo sono diventati non grazie alle loro corde vocali ma alle loro penne. Aaron Barker, Curtis Wayne, autori di questa canzone che si titola Love Bug. Whoa! Lovebug lo abbiamo ascoltato da Aaron Barker, Curtis Wayne, ovvero gli autori della stessa canzone che nella loro versione è presente in un album di qualche anno fa, di 2 o 3 anni fa, intitolato Straight from the Horse's Mouth. E voglio ricordarvi ancora una volta che siete all'ascolto di Rock FM, Maurizio Faulisi al microfono e qui tutte le sere dalle 23 alle 24 proponendovi un bel minestrone di generi musicali. Per quanto riguarda le cose di stasera, martedì e anche il venerdì si ascoltano i generi più tradizionali legati in qualche maniera, diciamo, che abbiano un legame stretto o meno comunque con la country music, la folk music e affini, quindi bluegrass, old time, western swing, Cajun, Tex-Mex, cose di questo tipo, singer, songwriters, bluegrass, newgrass, eccetera eccetera. Questo il martedì e il venerdì. Il lunedì e il giovedì invece rock and roll anni 40 e 50, rock and roll ma anche doo-wop, swing, rockabilly, tutte quelle belle cosucce che fanno American Graffiti. E poi il mercoledì con il mio amico il Matthews, che saluto casomai fosse all'ascolto. Ecco, con lui porto avanti una trasmissione da qualche tempo che ha un buon seguito, gli appassionati di rock, di ascoltatori di Rock FM non se ne perdono una. Ed è una trasmissione che si occupa di 60s, dagli anni 60 ad oggi, rock and roll certamente, ma che si avvicina, anzi, che straripa in una buona valanga di note punk e sicuramente cose molto adrenaliniche e molto vicine alla programmazione diurna di Rock FM, quindi un po' di beat, un po' di surf, un po' di punk and roll. E a proposito di beat, qualcuno qui mi scrive dicendo: ciao Maurizio, sto studiando la musica che metti in radio, leggo recensioni eccetera, ho sentito parlare bene dei Manfred Mann, è possibile ascoltare qualcosa? Allora sintonizzati caro amico domani sera, perché porterò con me i Manfred Mann, in quanto stasera sarebbero assolutamente fuori luogo. Stiamo parlando di una band inglese formata nel 1962 e sciolta nel 1971, grandi successi come Dua Didi e tanti altri, insomma uno dei gruppi storici della swing in lando degli anni 60. Ce li ascoltiamo domani sera, grazie per avermi iscritto, anche se nella serata non certamente beat e rock and roll. Va bene, si prosegue con un brano che diciamo che ha segnato una generazione, quella degli anni 70, una canzone, uno strumentale che ha fatto avvicinare anche in Italia una generazione intera alla musica bluegrass, molto di più di quanto ha fatto il film per esempio Nashville, piuttosto che Fratello dove sei, che è decisamente più recente, o che ne so, il film dedicato a Johnny Cash. Ecco, e il film Un tranquillo weekend di paura, dove c'era un duetto di banjo e chitarra, quello per la generazione dei giovani degli anni 70 è stato determinante, e tant'è che ha contribuito a far avvicinare alla musica bluegrass in Italia un bel po' di giovani, appunto, che si sono poi appassionati, e da lì sono nati molte formazioni. Adesso certamente si contano sulle dita, non dico di una, neanche forse di due, ma diciamo di 3 o 4 mani, ecco, mettiamolo così, a livello nazionale. Il brano strumentale l'ho fatto ascoltare tanto tempo fa e molto tempo che non lo propongo, e lo avete ascoltato sicuramente mille volte, è sempre un piacere ascoltarlo. Comincia così. Avete capito, no? Dueling Banjo, colonna sonora del film Deliverance, un tranquillo weekend di paura. E se non avete visto il film, andatevelo davvero ad acquistare in versione DVD, esiste già da un pezzo. È un bellissimo film, un film tra l'altro anomalo, una brutta esperienza vissuta nell'arco di un weekend da parte di quattro signori che vogliono andare a divertirsi facendo, come si dice, raffino, comunque andando sul fiume, sulle rapide, nel bel mezzo dei Monti Appalachi, là dove è nato il bluegrass nel sud-est degli Stati Uniti. E questo era il tema del film, ovvero Dueling Banjos, un banjo e una chitarra che duellavano rispettivamente il banjo di Eric Weisberg e la chitarra di Steve Mandel. Era musica bluegrass? Ma sì, certamente era musica bluegrass, e la musica bluegrass in realtà si suona anche con due strumenti soltanto. Meglio se c'è contrabbasso, chitarra, banjo, mandolino, violino, dobro, che dite? Magari. Questo è una band al completo di musica bluegrass. Si chiamano Grass Cats. I left everything that I ever did on, said goodbye to my mama and my pa. I left just one bag and $100 and a letter that she wrote me in the fall. Then I found my way down to Birmingham, found the address on the letter that she sent. It's a long way back to North Carolina. When your heart's broken, you're feeling mighty low. There'll be plenty of time to wonder why and where in the world did she go. I got 500 miles of heartache before I finally made it back home. And when I walk through my door, I won't leave there anymore. I'll be happy just to live there. Interviste, biografie e recensioni a cura dei maggiori esperti e con la collaborazione di numerose riviste nazionali ed estere. Digita www.bgmai.it. Ti apparirà The Long Journey, il più completo sito italiano di musica roots. www.bgmai.it. go, and there you go again. When we disagree, leaving you don't win, honey. Your sidewalk, baby talk, don't get up with me no more. The next time around the block, when you go by my door, baby, walk on till you got it way. Walk on till you find some day. Goodbye goes a long, long way. So, so long. Walk on. Singing the poor boy blues. This time I don't mind shining your walking shoes. Fresh ink in the pink, your papers are ready to sign. They'll both be waiting for. Suo nome è Matraca Berg, più famosa anche lei come autrice piuttosto che come cantante. In effetti ha cominciato nel 1990 con questo disco intitolato Line to the Moon e poi un disco seguito da pochi altri lavori, sì, davvero pochi. In totale ha inciso 5 dischi, ma ha scritto tantissime canzoni e tra l'altro molto molto belle, tant'è che sono prese in considerazione da moltissimi artisti molto famosi nell'ambito della country music made in Nashville. E dalla country music nashvilleana andiamo ad ascoltare la country music, quella californiana, quella degli Highway 101, dove Paulette Carson la faceva da padrona in questo quartetto. Tra l'altro gli Highway 101 sono credo venuti recentemente o devono venire in questo periodo in Europa, ma non c'è più la brava Paulette Carson, che ci ascoltiamo in questo disco di diversi anni fa, una canzone, quella che apre il lato 2, perché signori miei sto mandando in onda un vecchio LP, in realtà nuovo di zecca perché l'ho appena acquistato a 3 euro, succedono anche queste cose strane oggigiorno. Che dire, la canzone che apre la seconda, la B-side, è una canzone, una vecchia canzone di Buck Owens, quindi siamo dalle parti di Bakersfield con gli Highway 101, la canzone è There Goes My Love. I don't wanna be another. E brava, brava, brava Paulette Carson. Una band che continua a esistere, che continua a essere in attività, anche se Paulette Carson non è più della partita già da diverso tempo. Una band nata nel lontano 1986 e che faceva parte di quella, come si dice, quella rinascita della country music, legata ai suoni più, diciamo, ma tradizionali nel senso lontani dal pop, ma in realtà erano comunque suoni decisamente moderni, più chitarristici, avevano ripescato il violino, cosa è la steel guitar, cosa che a Nashville avevano quasi del tutto dimenticato. Ecco, di quella stagione che vedeva protagonisti anche personaggi che abbiamo ascoltato questa sera come Dwight Yoakam e George Strait, facevano parte anche formazioni come gli Highway 101 che abbiamo appena ascoltato in un classico There Goes My Love di Buck Owens, e non a caso, vedete, andavano a pescare nel repertorio dei grandi artisti del passato che avevano decisamente un suono molto chitarristico. Rimaniamo in California, l'orario ce lo permette perché siamo nel bel mezzo della notte e quindi ci andiamo ad ascoltare una canzone molto lenta, cantreggiante, decisamente acustica, molto pacata, una canzone che esce da un disco di Katie Kelly, che quindi sì, rimaniamo in California ma ce ne andiamo su nella umida San Francisco ad ascoltare una delle ultime produzioni discografiche della brava Katie Kelly, che il disco è intitolato Reason and Rhyme, il brano è The Words You Don't Say, e Katie Kelly. You Don't Say, brava, bravissima, Katie Kellick. Katie Kellick da San Francisco, e si è circondata anche questa volta dei migliori musicisti non solo di San Francisco, della sua zona. Per esempio Nina Gerber, bravissima chitarrista, ma anche la sua vecchia amica Lori Lewis fa parte della squadra dei musicisti che hanno fatto parte delle registrazioni di questo album del 2003, registrato per la Copper Creek Records, e c'è anche il bravo Scott Nygaard. Tutti i personaggi che sono stati in Italia grazie a un'associazione che fino al 2003 organizzava anche concerti, ma che dal 2003 in poi si limita a portare avanti e a gestire un sito di cui avete sicuramente sentito molte volte parlare. E certamente avete sentito lo stacchetto, il promo qui durante questa trasmissione. Stiamo parlando del sito che potete raggiungere digitando sulla vostra tastiera www.bcmai.it. Si apre The Long Journey, un sito che contiene circa 3.000 articoli, e lì andrete a trovare anche le recensioni dei concerti organizzati da questa BCMAI, questa associazione che è stata molto attiva per una quindicina di anni e che ha organizzato, ripeto, diversi concerti prettamente di musica acustica, per esempio anche a Lori Lewis, addirittura un paio, a Katie Kellick, no, Katie Kellick non grazie all'associazione, ma grazie al Milwaukee 50s Diner è venuta in Italia, e Scott Nygaard, che è anche lui fa parte della squadra appunto della registrazione di Reason and Rhyme, dal quale abbiamo ascoltato, e lo ripeto ancora una volta, The Words You Don't Say, scritta dalla stessa Katie Kelly. Che complimenti, davvero complimenti a voi che continuate a scrivermi al numero di SMS 338-6171300, lo ripeto 338-6171300. C'è chi chiede Alan Jackson, c'è chi chiede i Manfred Mann, e per Alan Jackson si deve attendere martedì prossimo, per Manfred Mann basta ascoltare la trasmissione domani sera. Goldie Hill, c'è qualcuno che chiede Goldie Hill, ragazzi io vi adoro, ma davvero non lo dico per così, lo dico sentitamente, perché ricevere per un conduttore di una trasmissione di country music quale è Country Skyline, ricevere richieste come questa davvero dell'incredibile. Goldie Hill è stato un personaggio femminile classe anni 30, comunque, che è registrato negli anni 40, 50, 60, un artista famoso sicuramente del passato, e sicuramente Goldie Hill l'ascolteremo molto presto dalle frequenze di Rock FM martedì prossimo, garantito. Willie Nelson, chiedono anche Willie Nelson al 338-6171300, famosissimo anche in Italia, è un grande, è riuscito a fare delle cose è sicuramente molto commerciali, alcune volte addirittura di dubbio gusto, nel senso che ha voluto conquistare davvero il mondo, e in realtà lo ha conquistato, ma Willie Nelson è riuscito a fare delle cose davvero che indirizzate a una nicchia. Quindi ben vengano i dischi dal taglio commerciale, se poi sono accompagnati anche da dischi che assolutamente contenenti sonorità ricercate e molto particolari, quali quelle che vi farò ascoltare la settimana prossima. Bene, e con questo vado avanti. Abbiamo ascoltato quindi musica acustica, posso andare avanti con la musica acustica? Beh, in realtà la musica acustica che ascoltiamo adesso non ha più a che fare con il bluegrass che abbiamo ascoltato durante questa trasmissione, ma con la western music. I Riders in the Sky, questo nome vi dice niente? I Riders in the Sky è un trio che vive a Nashville e del quale fa parte un personaggio che si chiama Ranger Doug, sono soprannomi Ranger Doug, Two Slim e Woody Paul, che sono tre personaggi veramente strepitosi. Loro fanno riferimento agli anni 30 e 40, quando la cowboy music, lo yodel andava di gran moda, ma lo fanno con un forte senso dell'ironia, anzi dell'autoironia. Sono spassosissimi, sono cabarettisti, ho avuto modo di ascoltarli negli Stati Uniti, a New York, in una bellissima serata che ancora ricordo come se fosse ieri, invece in realtà sono passati quasi 20 anni. Che dire di questi? Ecco che oltre a essere dei bravissimi musicisti country e anche jazz swing, come ascolterete nel brano che vado a presentarvi adesso, Ecco, sono anche, mi riferisco a Ranger Dog in particolare, degli storici della country music, gente che scrive libri che dei vere e proprie enciclopedie. Bene, credo di aver parlato davvero fin troppo, quindi via con i Riders in the Sky, spassosissimi con questa Cowboy Jubilee. The sound comes winging from over the plain. It's the cowboys a-singing the songs of the range. I wanna be there when they ride into town. Can't get enough of that great western sound. It's the best of the west. Come along with me to the Cowboy Jubilee. Let the fiddle play your bow and sweet melody. Hear the cowboys answer with their ho-yellow key. That bunkhouse bass never loses the beat. The cowboys start to clappin' and they kick up their feet. I pick a prairie flower and I ask her to dance. Once around the floor and it must be romance. The prairie moon is shining for her and for me at the Cowboy Jubilee. Western sound, it's the best of the West. I'm sure you'll agree at the Cowboy Jubilee. At the Cowboy Jubilee. Cowboy, cowboy, cowboy Jubilee. Questi erano i bravissimi Riders in the Sky. E la trasmissione sta volgendo al termine. Abbiamo il tempo soltanto per ascoltare poche altre canzoni, forse un paio, davvero un paio soltanto. Nel frattempo arrivano altre richieste. Ronnie Millsap, credo di avere da qualche parte qualcosa di Ronnie Millsap, un personaggio non vedente che ha fatto divertire le platee che appassionate di country music, particolarmente negli anni 70, ed è un po' che non lo sento. Dovrei avere qualcosa, credo di avere qualcosa, e se ce l'ho davvero lo porterò con me martedì prossimo. Questa sera veramente siete esagerati. Lo voglio ripetere ancora una volta, il numero 338-6171-300. C'è anche un'email, che è maurizio@radiorockfm.com. Utilizzate anche quella se vi va, e andate magari pure a vedere il mio piccolo spazio, me lo sono costruito anch'io come tanti fanno oggigiorno, su MySpace, www.myspace.com/Maurizio Faulisi. Anche attraverso quel sito si possono inviare email. Fatevi avanti, conosciamoci meglio e andiamo a conoscere un'altra, anzi a riscoprire una voce che è un po' di tempo che non entra negli studi di Rock FM. È la bellissima voce di una folk singer texana che porta il nome di Nancy Griffith. Ha registrato un paio di dischi che sono già diventati dei classici, sto parlando di dischi intitolati Other Voices, Other Room, e il seguito di qualche anno dopo che era intitolato Other Rooms, anche quello più o meno, ecco, sì. È andata a ripescare personaggi famosissimi del folk storico, compreso, non poteva mancare naturalmente, Woody Guthrie, il tanto celebrato Woody Guthrie, così come Pete Seeger, che è stato riscoperto anche da Bruce Springsteen, come sapete benissimo, in tempi decisamente recenti. Allora voglio farvi ascoltare una canzone che fu di Dwight Yoakam, qui eseguita dalla brava Nancy Griffith insieme a un altro suo compaesano, un altro texano, Doc, che si chiama Guy Clark. La canzone è Do Re Mi, è tratta del miraggio della California durante la depressione. Si cercava di andare in California, la terra promessa in quel periodo, perché si moriva di fame ovunque negli Stati Uniti, ma girava voce che invece in California le cose andassero meglio, si poteva lavorare, si poteva raccogliere frutta, diciamo, si poteva lavorare, trovare lavoro come raccoglitore di frutta particolarmente, ma comunque si poteva trovare lavoro in California. Così è girata questa notizia un po' in tutto il Midwest, soprattutto in Oklahoma, dove erano ridotti in polvere, assolutamente in polvere, e si riversarono in tantissimi con dei camioncini, macchine a piedi, a cavallo, sui muli, nelle maniere più improbabili. Insomma, storielle che potete leggere in quel meraviglioso libro di John Steinbeck, Furore, dal quale venne tratto anche un film famosissimo. Ecco, poi in realtà il posto per tutti in California non c'era, e parla di quanto era triste arrivare in California e non vedersi accettare, diciamo, la possibilità di varcare il confine. Quindi andiamo ad ascoltarci Doremi, ovvero i soldi. Ecco, if you ain't got Doremi, è meglio che te ne torni da dove sei venuto. E Doremi è inteso come soldi. Ecco, se non hai i soldi per entrare in California, è meglio che te ne torni a casa, perché qui non c'è posto per te. Nancy Griffith, Guy Clark. Thousands of folks back east, they say, are leaving home most every day. Well, they're beating a hot old dust way to the California line. Across the desert sands they roll, getting out of that old dust bowl. They think they're going to a sugar bowl, but here's what they find. Oh, the police at the port of entry, pay your number 14,000 for the day. You ain't got that dough. Got that Do-Re-Mi. Oh, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Georgia, Kansas, Tennessee. California is a garden of Eden. It's a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hard if you ain't got that Do-Re-Mi. Vacation by the mountains or the sea. Go swap your old cow for a car. You better stay right where you are. Hey, you better take this little chip from me. 'Cause I look through the want ads every day, and the headlines in the papers always say, if you ain't got that Do-Re-Mi, boy. If you ain't got that Do-Re-Mi, oh, you better go back. Beautiful Texas, Oklahoma, Georgia, Kansas, Tennessee. California is a garden of Eden. It's a paradise to live in or see. Believe it or not, you won't find it so hard. You ain't got the Do-Re-Mi. Yeah, believe it or not, you won't find it so hard. You ain't got the Doremi, ultimo, anzi penultimo brano della serata, era di Nancy Griffith e Guy Clark. Sì, penultimo brano della serata, perché non voglio lasciarvi con questa canzone, ma con quella che sta per arrivare adesso. Dopo avervi ringraziato per i tanti messaggi che mi sono giunti, le tante bellissime richieste, particolarmente belle questa sera, avete veramente, o avete a fianco voi un libro della storia, un'enciclopedia della country music, e cercate di mettermi in difficoltà andando a pescare anche nel passato più remoto, oppure devo assolutamente complimentarmi con i miei ascoltatori fedelissimi di Country Skyline, l'appuntamento settimanale con la country music, la roots music. da Rock FM ogni martedì e anche il venerdì, perché non è mai abbastanza, dalle 23 alle 24 e dalle 23 alle 24 da lunedì e venerdì. Non dimenticate che il Faulisi è sempre qua in diretta il martedì, mercoledì e giovedì, in replica invece il lunedì e il venerdì. Che altro dire? Beh, un saluto, anche tanti auguri anche al mio amico Antonio. Ecco, sì, voglio, dopo tanto bluegrass e cose un po' particolari, voglio chiudere la trasmissione con qualche cosa sicuramente di più scontato, ma sicuro di fare cosa gradita. Vado a presentarvi l'ultima canzone, che è Oh Oh Take It Easy. E sulle note di Take It Easy, Maurizio Faulisi vi ringrazia per il gentile ascolto. Ci risentiamo presto, naturalmente, su Rock FM. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four that wanna own me, two that wanna stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Don't even try, understand. Just find a place to make your stand and take it easy.